La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Ben ritrovati amici alla puntata natalizia della Rosa Purpurea. Un saluto da Franco D'Assisi. Anche in questi giorni di festa siamo insieme per raccontarvi tutto il cinema che c'è qui dalle frequenze di Radio 24. Natale, l'alta stagione, l'altissima stagione del cinema e quindi davvero una grandissima scelta per il pubblico che si riverserà come sempre in massa nelle sale cinematografiche. Noi abbiamo voluto impostare questa trasmissione in maniera diversa dal solito. La novità sostanzialmente è una, e ne parleremo diffusamente, il nuovo film di Silvio Muccino, Un altro mondo. Per il resto i film di Natale sono già nelle sale da qualche settimana. Allora abbiamo voluto provare invece a offrirvi un menù, come si fa nei grandi ristoranti, dal quale scegliere che cosa andare a consumare, che cosa andare a vedere in sala, e abbiamo diviso per tipologie, per generi di film, le pellicole che sono appunto, sono tante, e sono già nei cinema italiani dalle ultime settimane. Quindi con l'amico Boris Sollazzo cercheremo di darvi un po' una guida, cercare di darvi qualche strumento per districarvi nei palinsesti, anzi nei tamburini cinematografici, come si diceva un tempo. A questo punto noi quindi entriamo subito nel vivo della prima e unica novità di questo weekend natalizio, Un altro mondo, il ritorno alla regia di Silvio Muccino. Ci avevo messo un anno per chinarmi su quella lettera. Io ci vado. No. 10 anni per afferrarla. E tutta la vita per leggerla. Non è facile vedere un padre che muore. Livia, io non ho mai avuto un padre. Tuo padre era sicuro che saresti venuto. Aveva una cosa molto importante da dirti. Lui si chiama Fish and Chips. Lo conosco da quando ero piccolo. E c'è un po' la parabola del film Un altro mondo dentro questa clip che abbiamo ascoltato. Una lettera al centro della vita di Andrea, giovane, ricco, che, diciamo così, riesce a frequentare gli ambienti dell'alta società romana grazie anche agli assegni di una madre, che è Greta Scacchi, nel film, piuttosto fredda, una donna perfetta, si potrebbe dire anche troppo. E allora la vita un po' stonata di questo ragazzo senza grandi stimoli, con una compagna, una bella fidanzata, Livia, che è Isabella Aragonese, alle prese con problemi, con i cosiddetti disordini alimentari, insomma vita da ricco con tutte le nevrosi che si porta dietro. Ma questa lettera del padre morente in Kenya, di un padre che lo stesso Andrea non riconosce più di tanto, viene a spezzare questa sorta di ménage, e si pone di fronte ad Andrea una scelta, quella di restare o quella di partire per andare sul letto di morte del padre. Andrea decide di partire forse più per curiosità e per noia che non per reale affetto nei confronti di un genitore che, come avete sentito, non ha mai praticamente conosciuto. E arrivato in Kenya si rende conto che le cose sono diverse. Avete sentito alla fine la voce di un bambino, sarà quello che cambierà un pochino i giochi di questo viaggio. Il primo approccio in Kenya è quello con una operatrice di una organizzazione non governativa, che è Maya Sansa, che insomma lo mette di fronte alla cruda realtà. Questo bambino avrà dei parenti, no? O nonna, non funzionerà. Bambine, Imetosha! E poi tuo padre... Andavate a letto insieme? Non ce la fai proprio a guardarti intorno? Io ho soldi e posso pagare chiunque se lo prenda. Tieni. Se hai delle domande da fare, falle a tuo fratello. Che sono queste? Le chiavi di casa di vostro padre. No. Aspetta. Tu non hai capito una cosa. Il mio aereo parte fra poco, io non ci metto piede là dentro. Sono sicura che c'è un aereo anche domani. Tu pensi di fregarmi, eh? Da questo momento io mi fermo qui. Charlie è una tua responsabilità. E io lo porto dal nonno. E se non sarà il nonno, sarà un orfanotrofio o qualunque altro cazzo di posto. Il suo posto sei tu, Andrea. Una realtà che Andrea, come capite anche da queste parole, non riesce ad accettare. Lui era andato lì per un mordi e fuggi, vedere il padre, che tra l'altro quando arriva è già morto, e ripartire. Ma invece c'è questo impedimento, c'è questo ostacolo grosso di questo bambino che è una sua responsabilità da quel momento in poi, che lui lo voglia o non lo voglia. Parte un viaggio a due che ricorda altri film del cinema degli ultimi anni. Mi viene in mente Un mondo perfetto, dove le caratteristiche della storia che portavano Kevin Costner a fuggire questo bambino erano diverse, ma insomma si andava a creare proprio sulla strada, nel viaggio, un cemento fra i due protagonisti, il bambino e l'adulto. E così succede anche con Andrea, che di fronte a questo Charlie ovviamente deve giorno per giorno adattare la sua vita, gli piaccia o meno. Sentiamo questa clip per conoscere un po' meglio il mondo di Charlie. Dopo dobbiamo mettere a posto. Sì. Se papà era qui con me, come faceva ad essere anche il tuo papà? Quello era prima. Prima era con me e dopo se n'è andato. Dove? Qui. Per questo ce l'hai con me? Perché sono venuto dopo di te? Lui si chiama Fish and Chips. Lo conosco da quando ero piccolo. Tanto piacere, Fish and Chips. Adesso sbrighiamoci che nonnino ci aspetta. E allora, questa era un'altra clip di un altro mondo. Ovviamente ci fermiamo qui nel racconto per non svelare troppo. Il film prosegue con appunto questo rapporto che cresce e che, come dire, metterà anche un po' di zizzania, ma una sana zizzania, perché sarà quella che poi farà crescere i protagonisti anche all'interno della coppia formata da Andrea e da Livia. Dicevamo, allora, un'altra prova per Silvio Muccino dietro la macchina da presa, una prova che in un certo senso conferma le sue doti artistiche di regista, cioè la capacità di ripresa, la capacità di mettere la macchina da presa e di creare immagini molto, molto belle. E questo è sicuramente il maggiore talento di Silvio Muccino, che però è ancora un talento da sgrezzare. Il ragazzo è ancora giovane, quindi, come dire, pur avendo esperienza anche e soprattutto d'attore, però, e avendo un'idea di cinema precisa, però è, come dire, ancora un po' da cesellare. Mi riferisco per esempio alla mancanza di un po' di grinta, che non guasterebbe. Silvio Muccino sembra non riuscire a staccarsi da quella sua provenienza romano-borghese, che oltre a costituire lo sfondo sociale dei suoi film, lo è anche questa volta, rischia anche un po' di influenzarne le modalità cinematografiche, sempre troppo patinate. Diciamo che un bagno di rude realismo non sarebbe male, non gli farebbe male. Mi riferisco per esempio alle musiche, le avete sentite anche in queste clip, sempre molto ridondanti, onnipresenti, o ad alcune banalità anche molto telefonate della sceneggiatura scritta insieme a Carla Vangelista, scorciatoie un po' inverosimili. Insomma, c'è sempre qualcosa che ti fa distogliere dal vero, dal verosimile, anche quando la storia è una storia ben raccontata, anche quando la storia è importante, perché è una storia che vuole cercare di metterci di fronte alla storia, al concetto delle responsabilità, le responsabilità proprie, quelle dei padri, quelle dei figli, cosa ricade delle une sulle altre. Sono temi importanti che coraggiosamente Silvio Muccino affronta in questo film, esteticamente ancora un po' troppo legato a questa appartenenza, a questa provenienza. Ci piacerebbe veder Silvio Muccino dietro la macchina da presa, magari senza recitare, forse senza mettersi in scena diventerebbe più esigente con gli attori, graffierebbe di più, chi lo sa. Però chiaro, un percorso lungo che Silvio Muccino ha tutte le armi per poter affrontare. Ancora insieme alla Rosa Purpurea, seconda parte della nostra puntata natalizia. Abbiamo parlato di Un altro mondo di Silvio Muccino, novità di questo weekend di Natale. E allora sentiamolo, Silvio Muccino al microfono della Rosa Purpurea. Allora Silvio, guardando il film mi veniva in mente che ci sono tanti spunti che possono essere presi, diciamo, per raccontare che film è. Però forse quello più universale, anche più generazionale, è la fatica di prendere delle responsabilità, cioè la fatica di fare quel salto, no? Di passare in un'età, forse diceva Corrad, di passare la linea d'ombra. Guarda, non so se è necessaria questa storia, so che questa è una metafora che voleva parlare esattamente di questo, di questa difficile linea d'ombra, per dirla come dici te, la Conrad, che rappresenta la difficoltà di diventare adulti e quindi in un certo senso padre e madre di noi stessi. Andrea e Livia sono due personaggi che vivono a metà, vivono all'interno di una sorda depressione che non si vede, ma che è quella del non sentire. Loro hanno messo un tale spessore tra loro e la vita che non sentono dolore, non sentono amore, non sentono nulla. E quello è la conseguenza del non aver mai guardato e mai quindi mai curato quelle che sono le sofferenze, le fragilità che ci portiamo con noi dall'infanzia. L'arrivo di un bambino nella loro vita li obbliga a accettare quella vulnerabilità. Accettare quel bambino significa accettare anche le proprie debolezze. E quindi è un percorso. Sono due bambini, Andrea e Livia, che imparano a diventare grandi e quindi genitori. L'elemento dell'Africa molto spesso anche nel cinema, anche recentemente, penso al film di Susanne Bier per esempio, sì. No? Ecco, è l'elemento scatenante per metterci di fronte alla diversità. Più che un risveglio è il momento in cui Andrea entra in contatto con se stesso. Tempo fa in una conferenza stampa avevo citato una frase di Jung che in effetti però ha a che fare, nel senso l'inconscio è la nostra Africa interiore in un certo senso, perché non solo rappresenta tutto ciò che noi occidentali cerchiamo di non vedere, ma che nonostante cerchiamo di non vedere ci appartiene moltissimo, perché fa parte di noi, tutti veniamo da lì. Allora andare in Africa per Andrea significa entrare in contatto con quella parte. Andare in Africa invece per Silvio Muccino a girare cos'è stato? Cioè che tipo di esperienza ti sei portato dietro poi? Un'esperienza incredibile, perché forse la cosa migliore, l'incontro più bello è stato sicuramente, più ancora di quello con l'Africa, la vera Africa, l'Africa di Nairobi, l'Africa degli Islam, è stato l'incontro con Gianfranco Moreno, che è un medico italiano, un chirurgo che sta in quel paese, che è il paese del paradosso, sta cercando di costruire con i suoi soldi, con i soldi che riesce a trovare, un ospedale proprio all'interno dello slum dove abbiamo girato il film. Dico il paese del paradosso perché in Africa la sanità è appannaggio solo di chi ha i soldi. Vedere l'Africa attraverso gli occhi di un medico come Gianfranco Moreno è diverso che visitarla in vacanza o vedere Malindi, è un'altra cosa. E io mi sono innamorato di quel paese guardandolo attraverso i suoi occhi. Per cui abbiamo pensato che la visibilità di questo film poteva servire per sostenere questa causa. Quindi è nato un libro per bambini, un libro di favole che Carla ha scritto, ispirato a un peluche del film, che si chiama Fish and Chips, che è in tutte le librerie, i cui proventi andranno devoluti interamente a Wolf Friends, che è la sua onlus. È Natale comunque ed è un'occasione, voglio dire, ci lamentiamo tanto del fatto che Natale è un momento molto consumista. Allora in questo momento è un momento buono per fare qualcosa, al tempo stesso fare acquisti, fare spese. Silvio Muccino alla Rosa Purpurea per presentare e parlare di Un altro mondo, il suo nuovo film nelle sale cinematografiche italiane. Eccoci allora alla prima finestra sul Blu-ray Game di questa settimana, e anche in questa puntata natalizia non potevamo esimerci dall'essere molto generosi e regalarvi due copie di un Blu-ray di un film molto molto celebre e anche molto conosciuto, che sta molto dentro le corde insomma degli italiani, ma chiaramente dovrete prima indovinare di che film si tratta ascoltando le tre tracce che noi come sempre proponiamo una per volta. Cominciamo con la prima. Jeder Versuch der Sabotage wird mit dem sofortigen Tod bestraft. Die Hinrichtungen finden auf dem Hof durch Schüsse in den Rücken statt. Ecco, se avete capito siete bravi. La Rosa Purpurea @radio24.it, più tardi ci saranno delle altre possibilità per giocare, ovviamente come sempre il più bravo e veloce del sabato e della domenica vinceranno e riceveranno una copia proprio di questo film. E allora eccoci alla nostra, come posso chiamarla, gita attraverso i palinsesti cinematografici di Natale. La novità era una, ne abbiamo parlato, però ci sono tantissimi film ancora in sala. Ci siamo fatti un giro, ne abbiamo trovati una quarantina di titoli che sono ancora presenti a vario titolo, con varia distribuzione, alcuni in piccole quantità, magari solo in alcune grandi città, altri invece con distribuzioni di massa perché sono usciti da poco tempo, ma insomma la scelta cinematografica di questo Natale è ampia, e allora abbiamo pensato di dividerla per generi. Abbiamo così raggruppato le commedie italiane, i film comici, i film natalizi tipici, poi i film d'animazione in 3D per ragazzi, il cinema d'autore, anche questo sarà un Natale d'autore per chi lo vorrà, e l'action, il dramma, il film sentimentale, insomma, che è un'altra categoria. E con il nostro amico e collaboratore Boris Sollazzo vogliamo cominciare questo viaggio attraverso la programmazione cinematografica di Natale. Boris, un saluto e auguri anche a te. Buonasera Franco, buonasera a tutti gli ascoltatori e tanti auguri a te e agli ascoltatori chiaramente. E allora Boris, abbiamo detto, cominciamo con il genere che è più natalizio di tutti proprio per eccellenza, i film di Natale, le commedie, i film comici italiani. È un anno questo nel quale non è che manchi prodotto, anzi mi sembra che i cinepanettoni intesi in senso lato si stiano moltiplicando. Una volta ce n'era uno, il Boldi De Sica della situazione, adesso da quando Boldi De Sica li fanno separati, più sono arrivate anche alcune commedie da alcuni autori che diciamo strizzano molto l'occhio a quel genere, cercano molto quel pubblico, le stesse classifiche sono piene, sono già piene. Pensate che lo scorso weekend il primo in classifica era Natale in Sudafrica di Neri Parenti con 3 milioni e 200 mila euro, con una partenza leggermente più fiacca rispetto a quella di un anno fa. La seconda, il secondo posto c'era La Banda dei Babbi Natale con Aldo, Giovanni e Giacomo, che ha esordito molto bene con 2 milioni e mezzo nel primo weekend. Al sesto posto La Bellezza del Somaro, che è un film invece particolare, atipico, ne abbiamo parlato settimana scorsa con Sergio Castellitto qui alla Rosa Purpurea, un film, La Bellezza del Somaro, che è un po' il tentativo di fare una commedia diversa, un po' anche diversa dal cinema italiano, un po' surreale, un po' grottesca. E poi ancora A Natale mi sposo, insomma i titoli che appartengono a questo gruppo sono tanti. Boris, se dovessimo sceglierne uno, consigliarne uno, pur dentro il solco di un genere che va da solo, insomma, dal quale non ci si può aspettare grandi sorprese, insomma, cosa consiglieresti? Ma guarda, non è facilissimo, tra i cinepanettoni duri e puri forse La Banda dei Babbi Natale di Paolo Genovese, tra gli outsider italiani La Bellezza del Somaro, tra gli stranieri American Life, mi verrebbe in mente insomma queste tre scelte. Però ecco, tra i cinepanettoni duri e puri, quelli insomma che tu dicevi si sono moltiplicati, cinepandoro, cinepanettone, cinetorrone, ormai abbiamo praticamente tutti i dessert natalizi serviti in sala, inaspettatamente sono Aldo, Giovanni e Giacomo, a mio parere, ad aver dato il meglio. E allora a questo punto sentiamo subito una clip del film La Banda dei Babbi Natale e poi ne parliamo un attimo di più, sentiamo. Ma che razza di banda siete? C'è stato uno sbaglio, siamo innocenti. Ma io faccio sport. Ah, bocce, accostatore. Come mio nonno. Guarda che è un omaggio. Sì, ho capito, ma sto parlando per la signora. Sì, per la signora. Ma, ma porca ragazzi. Quella puttana. Avanti. Che cazzo ci fai nella mia macchina? Sono entrato per riflettere e sono rimasto chiuso dentro. Ma chi è sto Africa qua? Veramente sono nato normanno in terra sicura. Beh, nella clip Boris si respira una bella aria frizzante e sembra proprio di essere tornati ai tempi migliori di Aldo, Giovanni e Giacomo, che si erano un po' persi per strada, direi dopo Chiedimi se sono felice, e qui forse ritornano a quei livelli. Nessuno se lo aspettava, devo dire, perché le ultime prove erano state abbastanza avvilenti. Il Cosmo sul Comò era stato forse il momento in cui il pubblico si era completamente disaffezionato a loro, che era stato completamente deluso. Già l'operazione di Unplugged era stata capita poco. È arrivato Paolo Genovese, un regista vero, senza nulla togliere agli altri, che forse erano semplicemente troppo vicini ad Aldo, Giovanni e Giacomo per mantenere una certa lucidità, e recuperando nella tradizione di Aldo, Giovanni e Giacomo, riattualizzando degli sketch, trovando delle spalle straordinarie, penso ad Angela Finocchiaro, a Lucia Ocone, a Sara Damario, bravissima, insomma le donne di Aldo, Giovanni e Giacomo. Giovanni addirittura se lo devono dividere a metà, nonostante non sia altissimo, ci si diverte, fanno il vero cinepanettone, c'è una storia di Natale, addirittura loro sono vestiti da Babbi Natale, è un continuo flashback, quindi non devono faticare neanche più di tanto. La struttura sketch, che è a loro cara fin da Tre uomini e una gamba, è salva, ma sembrano essere rinati, sembrano essersi reimpegnati. Tra l'altro nel trailer era evidente anche un'altra cosa, la bellezza della colonna sonora. Piccola curiosità, Mina ha scritto per loro, pare, dice almeno il loro produttore, che sia perché i nipoti di Mina sono straordinari fan di Aldo Giovanni e Giacomo. E allora, la leggenda di Babbi Natale, il nostro consiglio fra il gruppo film natalizi commedie italiane, ovviamente, poi parleremo anche del resto. Io ricordo che ancora nelle sale anche il campione di incassi di questa parte della stagione, Benvenuti al Sud, seppure con un incasso marginale, è ancora tipo 14esimo, 15esimo in classifica, ma insomma si può ancora vedere, magari avrà questa ultima botta natalizia per arrivare oltre i fatidici 30 milioni di incasso globali. E allora, terza parte della Rosa Purpurea, ancora insieme, continua la nostra carrellata attraverso i film che vi offrono le sale cinematografiche in queste ore, in questi giorni natalizi. Abbiamo analizzato la novità, che è Un altro mondo, i film di Natale italiani, i cinepanettoni e le commedie e dintorni. Ora andiamo a un altro genere prettamente natalizio, quello dell'animazione, del cinema per ragazzi e del 3D, che è diventato l'elemento, l'additivo che ha fatto schizzare in alto gli incassi di alcuni film. Ora, per fare un po' il menù, abbiamo un film come Megamind, un film d'animazione, nell'animazione un po' più graffiante, quella insomma un po' più moderna, che da Shrek in poi è diventata un po' la cifra dell'animazione non Disney, ha permeato un pochino anche quella Disney, però secondo me Disney ha mantenuto una poetica sua rispetto a quello che si vede in giro. Qui Megamind ne è un esempio. Abbiamo Le avventure di Sammy, abbiamo il nuovo capitolo di Narnia che tiene botta anche a livello di incassi, cosa che forse almeno io personalmente non mi aspettavo, mi sembrava un po' una saga finita, consumata, invece tutto sommato il film non sta andando malissimo. Rapunzel, che invece è partito forte, questo è il film Disney di questa di questo Natale, quindi anche la mitica Raperonzolo è presente nelle sale. Abbiamo poi anche Harry Potter, che non è in 3D, come invece sarà la seconda parte di questi Doni della Morte, ma che è assolutamente un altro blockbuster per ragazzi. Allora, Boris, scegliamo da questo mazzo e tiriamo fuori una carta per i nostri ascoltatori e anche una considerazione sul 3D. Quando Avatar ha fatto sbarcare in massa la tecnologia 3D, si era detto è cambiato tutto, eccetera, eccetera. Abbiamo visto tanti titoli in 3D avere un valore aggiunto da questo fatto, ma ne abbiamo visti anche tanti altri non averlo affatto, il che significa che la centralità della storia in un certo senso rimane. Ma assolutamente, direi che i film che hanno saputo lavorare sul 3D migliorandolo e migliorandosi si contano sulle dita di una mano da quando insomma è arrivato in potenza, in armi. Mentre ci sono tanti film inutilmente compiati in 3D o che addirittura sono stati rovinati dal 3D, e quindi questo si deve valutare, insomma è una tecnologia che forse va in passivo. Certo, c'è poi la grande risorsa di Avatar, cioè il grande capolavoro Avatar, e anche forse Zack Snyder con Il Regno di Ga'ul, che ha saputo spostare in avanti i termini di riferimento soprattutto estetici di questo genere. Per quanto riguarda questo Natale, ce n'era uno che tu non hai citato perché è dopo Natale effettivamente, che forse ha usato bene il 3D ma non ha usato bene tutto il resto, che era Tron. Di quelli che hai citato, direi che forse Megamind, pur dovendo fare la considerazione che con Cattivissimo Me ci si era già andati molto vicino e forse si era lavorati meglio sul genere, però Megamind è sicuramente molto divertente, questo faccione blu trattato come la foto di Banks di Obama, no, I can't, forse non originalissimo, ma credo che di tutti quelli che tu hai citato sia la carta da pescare, insomma, per andare con i propri figli. Allora, adesso io vi faccio sentire una clip proprio di Megamind in onore di Boris Sollazzo, poi vi dico la mia, sentiamo. I tuoi piani falliscono sempre, sei prevedibile. Tu trovi questo prevedibile? Alligatori, sì. Ci pensavo venendo qui. Boom, dritto in faccia. Infantile. Orrore! Già visto? Quello lì dietro? Ovvio. Cosa farà quest'altro? Va piano. Il ragno è nuovo. Ragno? Sì. Il ragno. Basta un piccolo morso del Arachnis mortiferus per paralizzare all'istante Toglimelo! Un film che è doppiato benissimo, questo va detto. Megamind veramente ha un doppiaggio straordinario e sapete, chi ci ascolta spesso lo sa, non siamo sempre teneri con il doppiaggio italiano, ma qui davvero Megamind ha fatto il pieno, cioè un grandissimo doppiaggio, anche se il film personalmente in certi momenti l'ho trovato un po' lungo, un po' sfilacciato e anche un filino noioso, e comunque il tema del cattivo che non è davvero cattivo ma in fondo è più buono di quelli che sembrano buoni e perfettini, da Shrek in poi un tema sdoganato, non è sicuramente originale, come del resto diceva lo stesso Boris. Invece mi aspettavo, io che non sono un grande stimatore di Harry Potter, di questa saga che ho sempre trovato un po' incasinata, mi aspettavo meno da questo nuovo capitolo di Harry Potter, I Doni della Morte, che ha assunto una regia molto lineare. I ragazzi sono diventati adulti, c'è più respiro, ci sono più silenzi, tutto sommato è un film che si lascia vedere più di altri. Non so se sei d'accordo, Boris, con questa mia analisi, ma io, se avessi 8 euro da spendere, li spenderei per Harry Potter in questo gruppo di film. Guarda, devo essere sincero, hai ragione, ripensandoci è così. Su Harry Potter, da critico, tra virgolette, sospendo solo il giudizio, perché è davvero una metà di film, per come finisce si vede che gli manca l'altra metà. E Matrix mi ha insegnato che quando ho pensato al secondo capitolo, beh, non male, poi ho visto il terzo, ho capito che era brutto anche il secondo. Purtroppo questi film divisi a metà vanno giudicati quando si vede anche il secondo. Devo dire che questo ha ottime premesse, fa pensare a un capitolo finale molto forte, e di sicuro intrattiene più di Megamind, che ha quei difetti che tu giustamente hai evidenziato, ma che con un certo umorismo, insomma, si sopportano. Assolutamente, assolutamente sì. Allora, a questo punto, Boris, stai un attimo lì perché dobbiamo giocare ancora insieme. C'è la seconda traccia del film misterioso di oggi, sentiamo. E quando comincio io a lavorare? Tu sei di già in ritardo, subito! Prendi quella poltrona e portala di là in laboratorio. La Rosa Purpura è @radio24.it. Se avete indovinato di che film si tratta, per provare a vincere il Blu-ray di questo film, più tardi ci sarà l'ultima delle possibilità. Noi andiamo avanti invece con il palinsesto natalizio, con i film di Natale al cinema, con un altro settore, un altro segmento, che è quello dei film d'autore, del cinema d'autore. Già da qualche anno il cinema d'autore, che una volta si ritirava proprio come la risacca al mare, quando arrivava il periodo natalizio non trovavi più niente che valesse, insomma, come dire, sotto il profilo artistico e cinematografico, ebbene, da qualche anno, dicevo, è un cinema presente anche in quei giorni, ed è giusto così, perché se si va di più al cinema, si va di più al cinema anche a cercare quel tipo di cinema, quel tipo di film. Il menu dice L'esplosivo piano di Basile, film francese che, come dire, prende l'esperienza, la storia un po' dei francesi Junet Caron, insomma, di Delicatessen in poi. American Life, che prima Boris ha citato come commedia, lo è effettivamente, ma noi l'abbiamo inserita in quei film d'autore perché, insomma, Sam Mendes lo merita, a mio modo di vedere. Tornando a casa per Natale, di Ben Tamer, un rarissimo film natalizio ma d'autore, senza rinunciare a nessuna delle due componenti, il fatto di essere natalizio e il fatto di essere d'autore. E poi Woody Allen, Incontrerai l'uomo dei tuoi sogni, un Woody Allen forse leggermente sotto Whatever Works, basta che funzioni, ma comunque graffiante il giusto, con un film corale, con un cast importante. Boris, qui i nostri 10 euro, anche 8, dove li spendiamo? Ma guarda, io anche 10, anche se il 3D non ce l'ha, direi American Life, per un regista che, tra l'altro, devo dire, ogni tanto tratta in maniera troppo pregiudiziale. Trovo che Sam Mendes abbia trovato una felice autoironia, una felice leggerezza con cui raccontare quell'America che su di lui grava con pesi moralistici molto molto forti. Qui invece riesce a guardarla con occhi lucidi, anche feroci, penso alle scene con Maggie Gyllenhaal, che sono meravigliose, di un certo radical chicchismo new age, però riesce anche a farci sorridere e a sorriderne, quindi assolutamente direi American Life. Buono anche Genet, che però, insomma, se mi sembra ciurlare un po' nel suo manico, andare un po' sul sicuro. Se posso permettermi uno sconsiglio per tutto il Natale e per tutti i generi, purtroppo Woody Allen è forse fa forse il suo peggior film della carriera. Ecco, Woody Allen, come dicevo prima, effettivamente è un film un po' sfilacciato, soprattutto che in determinate parti non prende mai tono. Ha alcuni elementi, per esempio funziona a mio modo di vedere abbastanza la situazione Hopkins con la simpatica prostituta che finisce per sposarsi, che è un personaggio dispari, particolare, eccetera, ma non funziona per niente per esempio tutta la parte tra Naomi Watts e anche la madre. Insomma, ecco, c'è questo tentativo di fare una commedia corale, ma manca il cemento per dire che quella è una storia sola. Non è una storia sola e inevitabilmente, sebbene ci siano alcuni momenti divertenti, il film si sfilaccia, come dicevo, sicuramente un gradino sotto rispetto all'esperienza di Whatever Works, Basta che funzioni, che a mio modo di vedere era un film che poteva starci nella filmografia di Woody Allen di 20 anni fa tranquillamente, se ci fosse stato Woody Allen protagonista di quel tempo, ma insomma il protagonista di questo tempo era assolutamente azzeccato. E allora noi andiamo avanti, perché abbiamo da parlare ancora di un segmento che abbiamo ribattezzato action drama, insomma tutto quel che resta, potremmo dire, dal film sentimentale all'azione all'horror, perché ci sarà da fare un discorso sull'horror, che è quello anche in questo caso del 3D. Però insomma c'è un film che è appena arrivato nelle sale, che è The Tourist. Un film che in America è andato malissimo, è stato stroncato anche dalla critica, ma che nella sua primo weekend italiano ha fatto 1.900.000 in 3 giorni ed ha la più alta media per sala, media per copia, del weekend. E questo è un risultato importante. Il regista, lo ricordiamo, un regista che aveva regalato a tutti un film come Le vite degli altri, che aveva fatto gridare il capolavoro, insomma, qui alle prese con Hollywood, e con quale Hollywood? Johnny Depp, Angelina Jolie. Sì, si è detto forse Venezia è troppo un po' per il cinema in generale, pochi maestri hanno saputo trattare Venezia al cinema, qui si rischia sempre un po' l'effetto turistico, per citare il titolo, però il film sta andando bene, Boris, mi sembra che stia andando anche meglio di quello che ci si aspettava. No, sicuramente meglio. Io per appunto il film di Florian von Donnersmarck rispolvero una grande battuta di un collega, Maurizio Di Rienzo, che l'ha definito Le gite degli altri, che trovo una definizione geniale. In questo caso temo che però, più che la bontà di un film, che io a me mi trovo d'accordo insomma con la critica estera, trovo che sia un film che raggiunge i suoi momenti migliori nell'umorismo involontario portato all'estremo, qui c'è da dire che si conferma un po' la regola di mercato dell'Italia: quando un film va male in tutto il resto del mondo ma ha grandi star, gli italiani abboccano, potremmo dire. In Italia, soprattutto con una buona campagna promozionale, vedasi la discesa di Johnny Depp e Angelina Jolie qui in Italia a presentare il film, può avere diciamo un risultato migliore. Però insomma, per chi ama questi due attori può essere un divertissimo, niente male, contando che è una commedia che non vorrebbe essere una commedia. Sì, no, infatti è anche un film difficile, questo, difficile da fare, intendo dire, perché devi stare sempre a galleggiare fra la commedia, l'azione, insomma, sono cose che funzionavano in certo cinema americano degli anni 50, per esempio, non sempre funzionano oggi. Tra l'altro un film che ha avuto grosse vicissitudini, anche il regista è cambiato più di una volta, e si è arrivati alla fine a questo esordio hollywoodiano di Florian Henkel von Donnersmarck, che però era sembrato più a suo agio con gli mezzi più scarsi del cinema europeo. Abbiamo 2 minuti per fare, io voglio sottolineare che c'è al cinema anche I due presidenti, che è un film che comunque tutto sommato secondo me si può vedere, e che invece sta andando piuttosto bene, stiamo sempre su termini non assoluti ovviamente, ma relativi, però sta andando piuttosto bene anche Saw in 3D, l'ennesimo film della saga di Saw, che è arrivato appunto anche lui non primo, certo, fra gli horror a indossare gli occhialini. È maturo il rapporto, ecco, prima dicevamo non sempre il 3D è un valore aggiunto, nell'horror tutto sommato potrebbe trovare un campo di applicazione, diciamo così, privilegiato. Beh, per chi si ricorda, ci fu un ennesimo capitolo di Nightmare che costrinse i suoi fan anche nelle arene all'aperto, fu molto buffo, a indossare gli occhialini verdi e rossi, quindi insomma l'horror fu pioniere di questa tecnologia, e devo dire che sicuramente, perlomeno a livello di divertimento, è quello che ne fa un uso più brillante. Io penso dall'horror per famiglie di Dante, The Hall, fino appunto allo stesso Saw, in cui sì, il 3D forse è pleonastico, però devo dire che quando c'è un arto che si spacca e viene lanciato contro il lo schermo, effettivamente l'effetto locomotiva c'è e ci si diverte, insomma, non è molto più raffinato di questo, però può andare. La nuova generazione di questo 3D è nato con San Valentino di Sangue, più o meno non è mai migliorato. C'è da dire che solo 3D, quest'ultimo capitolo, è un bell'horror politico come il penultimo. Dice delle cose sulla società americana che fanno fatica a dire film molto più seri di questo. È un film che secondo me merita, al di là del 3D e al di là del genere, cioè è un film molto intelligente che appunto da due capitoli ha virato fortemente sul politico. Ancora insieme alla Rosa Purpurea, quarta parte della nostra puntata natalizia, e siccome a Natale si sta anche molto di più in casa, oltre che andare molto di più al cinema, andiamo a vedere cosa offrono i palinsesti della prossima settimana, partendo proprio da questi giorni, con gli amici della redazione del settimanale Film TV. Siamo in collegamento con Sara Sagrati, che saluto. Sara, un primo consiglio che è davvero un classico dell'animazione. Ciao Franco, ben ritrovati con le segnalazioni di Film TV, che questa settimana continuano un po' dei cicli già in onda sulle nostre TV. Su Rai 1 infatti domenica alle 21:30 continua il ciclo delle bellissime prime dei grandi classici Disney con La Bella Addormentata nel Bosco. Andrà in onda alle 21:30 ed è in assoluto uno dei grandi classici dell'animazione, con la strega malefica e cornuta che tanto ci ha fatto impaurire da bambini, e quindi facciamolo vedere anche ai più piccoli di oggi. E sarà davvero un grande successo, perché anche i precedenti tentativi, appunto esperimenti di queste prime serate su Rai 1 con l'animazione Disney, hanno avuto esiti straordinari. 26 dicembre, Santo Stefano, prima TV alle 21:30 su Rai 1. Seconda proposta invece di segno assolutamente opposto, perché arriva, ritorna il grande Sergio Leone. Sì Franco, continua un altro ciclo che è quello che Rai 3 sta dedicando al grandissimo Sergio Leone. Continuiamo martedì con Il Buono, il Brutto e il Cattivo, che andrà in onda alle 21:05, ovviamente tutti ce lo ricordiamo per il grande triello finale, ma giovedì ci sarà anche Giù la testa, sempre alle 21:05, che fu un film rivoluzionario non solo perché parla di rivoluzione, ma per il modo in cui la affrontava. E allora Sergio Leone, Il Buono, il Brutto e il Cattivo, 28 dicembre, martedì, Rai 3, 21:05, sempre Rai 3, 21:05, ma giovedì 30 dicembre, Giù la testa. Visto che è Natale, vogliamo dare un altro spazio, perché ci sembrava interessante sottolineare un altro passaggio di un film nel quale recitava una nidiata di attori straordinari, Kamikazen. Sentiamo. Sì Franco, l'ultima segnalazione è molto spiziosa, in quanto si tratta di uno dei primi film di Gabriele Salvatores. Andrà in onda su Italia 1 alle 4 di notte di giovedì, ed è Kamikazen, Ultima notte a Milano, in cui Salvatores chiamò a raccolta tutti i suoi amici del cabaret milanese che frequentavano il Teatro dell'Elfo e mettono in scena un film che è un frullato di anni 80, dolce e amaro. E allora appuntamento la prossima settimana con i consigli di Film TV. Buon Natale a te e a tutti i tuoi ascoltatori, e a risentirci alla prossima. E allora questi i consigli della redazione di Film TV per quanto riguarda i film da vedere, rivedere, riscoprire in televisione la prossima settimana. A questo punto noi abbiamo la terza e conclusiva traccia del Blu-ray Game di oggi. Tu vuoi che tua madre viva murata qui in questa casa? Perché se tu non vieni stasera, io non avrò più il coraggio di uscire per strada. Forse dovrei dormire un po'. Prima mi girava tutto a sinistra, adesso mi gira tutto a destra. Cosa sarà? Cosa sarà? Dovete dircelo voi, la Rosa Purpurea, @radio24.it. Se avete indovinato di che film si tratta e volete provare a vincere il Blu-ray proprio di questo film. Chiaramente avrete la possibilità di giocare scrivendo l'email al nostro indirizzo di posta elettronica, e il più bravo e veloce, ammesso che già non sia arrivato, perché c'è gente che ci stupisce ogni settimana, troverà la sorpresa la prossima settimana quando annunceremo i vincitori. Così come adesso annunciamo i vincitori di 7 giorni fa, avevamo fatto ascoltare anche questa clip. Festa, festa, matta, la popò è fatta, un amico sempre c'è, sempre in guai a te. Festa, matta, super festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, so, delirante, decisamente delirante. Lo abbiamo citato più volte durante questa puntata. Era Shrek, era uno dei capitoli della saga di Shrek, perché la scorsa settimana abbiamo giocato con l'intera saga dell'Orco Verde, che è arrivata in Blu-ray in un cofanetto straordinario. Avevo detto settimana scorsa che qui c'era anche un impegno economico non da ridere, perché il regalo era un regalo importante, e così è stato, perché i nostri due fortunati e bravi del sabato e della domenica riceveranno a casa il cofanetto di tutta la saga di Shrek, quindi insomma, come dire, un premio davvero importante, e lo riceveranno Anna Maria Catalano di Codogno Lodi e Alessandro Macorutti di Tavagnacco Udine. Sono stati loro i due che hanno per primi capito che si trattava della saga di Shrek. E allora noi però, per andare un po' più dentro il percorso di questo cofanetto davvero straordinario, siamo già in collegamento con Claudio Pofi. Auguri di buone feste anche a Claudio, che è in collegamento con noi. Claudio, abbiamo detto, un grande regalo, ma un cofanetto che, come dire, esaudisce un pochino tutta la curiosità che ci può essere per Shrek e dintorni. Ciao Franco, sì, un buone feste ai nostri amici in ascolto. Sicuramente un cofanetto importante. Paramount Dreamworks praticamente ha raccolto l'intera saga di Shrek, compreso appunto l'ultimo da cui abbiamo ascoltato la clip, Shrek e Vissero Felici e Contenti. C'è grandissima cura, c'è praticamente tutti i Blu-ray sono in grado di restituire la qualità della visione cinematografica, ci sono tantissimi extra disponibili per approfondire le lavorazioni, ma soprattutto giochi per i più piccoli, veramente molto divertenti. Direi forse l'unico neo, se volessimo trovarne uno, la traccia audio in italiano, che è la stessa Dolby Digital DVD, c'è sicuramente una resa più efficace per l'originale inglese ad alta risoluzione. Questo quindi l'analisi tecnica del cofanetto di Shrek. Noi a questo punto invece andiamo ad affrontare la prima delle due pellicole che arrivano in DVD, che arrivano in Blu-ray, che arrivano in videoteca, insomma, in questa settimana, e facciamo un salto indietro di qualche anno, per esattamente di 13 anni, per andare al 97, quando Tom Shadyac firmava Bugiardo Bugiardo, un'altra prova di uno straordinario Jim Carrey. Sentiamo. Qui si parla di tutte le donne. Guardi Tina Turner, dove sarebbe adesso se si fosse arresa e avesse detto «Colpiscimi ancora, Ike, con più energia, coraggio!» Sarebbe finita in un bordello come Tina la riccia, ma lei è stata superiore al suo marito, perché ha deciso di lanciare un messaggio. «Fuori dal letargo, aprite gli occhi, sorelle, svegliatevi, sorelle! Il sesso debole non esiste!» Fletcher Reedy è un avvocato ben poco irreprensibile, talmente bugiardo da indurre il giovane figlio Max a esprimere un desiderio il giorno del suo quinto compleanno, ovvero che il padre dica solo e sempre la verità per 24 ore, desiderio che avrà ovviamente conseguenze a dir poco disastrose. Commedia divertente con un esilarante istrionico Jim Carrey da riscoprire in alta definizione grazie al Blu-ray di Universal Pictures, sicuramente superiore alla qualità video rispetto al DVD, c'è qualche piccolo momento di grana. Ottima la traccia audio di TS in italiano, con ancora maggiore respiro per l'originale inglese ad alta risoluzione, non ci sono extra. E questo per quel che concerne allora Bugiardo Bugiardo. Un altro salto indietro nel tempo, in un tempo che prima era il 1962, di quando il romanzo di Ken Casey arrivò nelle librerie, poi divenne il 1975 quando Milos Forman firmò uno dei capolavori assoluti della storia del cinema, ovvero Qualcuno volò sul nido del cuculo, qualcosa che ha cambiato la storia di un certo tipo di cinema politico e psichiatrico, perché lo ricorderete, uno straordinario Jack Nicholson alle prese con lo smascheramento del carattere repressivo delle istituzioni, diciamo, psichiatriche, che somigliavano più a delle carceri che non a degli ospedali. Insomma, un film che è rimasto nella storia. Noi andiamo ad ascoltare la clip. Come stai, Mac? Una cannonata, Bellino, proprio una cannonata. Sai, mi davano 10.000 watt al giorno e adesso schizzo faville. La prima donna che mi faccio l'accendo tutta come un flipper, e alla prima botta quella mi fa tilt, ci puoi scommettere. Beh, questo è molto divertente, Randall. Grazie. Ma quando lei è entrato, stavamo parlando con Jim. C'è un problema che riguarda le sue medicine e penso che dovremmo tornarci su. Oh, io non... A me non dispiace affatto. Randall McMurphy, dopo l'ennesima condanna, si finge pazzo per sfuggire al vero carcere. Rinchiuso in un duro istituto psichiatrico per essere sottovalutato, si ritrova in realtà in una specie di lager dove si praticano lobotomie ed elettroshock, circondato non da persone in cura quanto da casi clinici imbottiti da farmaci. Inizierà così un duro scontro psicologico tra McMurphy e la capo infermiera Ratched, con conseguenze disastrose. Opera mirabile sull'immaginazione dei cosiddetti diversi e una delle più grandi interpretazioni di Jack Nicholson, che vinse l'Oscar. Il Blu-ray di Warner offre la migliore visione possibile, con il formato d'immagine prossimo, anche se non identico, a quello cinematografico. La grana è parte integrante della ruvida fotografia dei maestri della luce Haskell Wexler e Bill Butler. Accettabile la traccia in italiano monofonica, migliore sicuramente l'originale inglese. Tra gli extra segnalo un interessante documentario sulla lavorazione, tra cui è presente un esclusivo incontro con Michael Douglas, che produsse il film e ne ripercorre il periodo della realizzazione. Ecco, ci sono due curiosità su questo film. Una, hai parlato dell'Oscar a Jack Nicholson, il film ne vinse 5, tra cui film, regia, oltre a Jack Nicholson, insomma, Oscar importanti. L'altra, hai parlato di Michael Douglas, perché? Perché Kirk Douglas, il padre, nel 63 aveva portato in scena sulle scene appunto teatrali di Broadway proprio questo libro di Casey, che poi divenne anche il film. E questa presenza del padre Kirk Douglas spinse Michael a produrre appunto Qualcuno volò sul nido del cuculo. Sono piccole curiosità su un grande capolavoro. Grazie anche a Claudio Poffi, ancora buone feste. A presto, buone feste a tutti. E si chiude qui la puntata natalizia della Rosa Purpurea. Grazie per averci seguito, speriamo di esservi stati utili nel scegliere un film, perché anche Natale, forse soprattutto Natale, anche se noi siamo per andarci tutto l'anno, andare al cinema, oltre che un rito, è anche un grande piacere. Un saluto da Franco D'Assisi.